Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS. Eccoci ritrovati con un nuovo appuntamento di So Info, il punto radio settimanale dedicato ai temi della salute e della società, osservati attraverso uno sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Proseguiamo il nostro viaggio nell'universo della salute a misura di bambina e di bambino e spostiamo per un attimo l'attenzione dall'aspetto delle cure a quello più generale del benessere dei piccoli pazienti. E oggi con noi Roberto Michielon, coordinatore del progetto LILT Giocare in Corsia, che ci racconta quale sia il contributo dei volontari nel reparto di pediatria dell'ospedale di Treviso e Conegliano. Il progetto LILT Giocare in Corsia di Treviso e Conegliano è un viaggio di iniziato, come accade con tanti viaggi, con un incontro iniziato nel bisogno di assistere una bambina straniera di nome Ivka. Era il 1994. Il viaggio intrapreso è continuato e cresciuto tanto che può contare oggi di 150 volontari piacevolmente impegnati nel portare il gioco in pediatria. Ciò che da allora ci guida è contribuire ad umanizzare la pediatria nella nostra città. Il principio che il bambino ha il diritto a restare un bambino anche in ospedale. E noi volontari di Giocare in Corsia contribuiamo a proteggere l'integrità dei bambini portando quotidianamente in reparto il gioco. Incontriamo lo sguardo di ogni piccolo perché possa prima di tutto sentirsi riconosciuto nel suo diritto di gioco, nel suo diritto a restare bambino anche durante l'ospedalizzazione. E nel gioco che proponiamo il bambino può distrarsi, incontrare i coetanei, essere solidale ma anche competere, può ideare, progettare e realizzare. La nostra attenzione è rivolta ad incoraggiare e valorizzare la sua iniziativa e partecipazione in un clima di possibilità. Contribuiamo inoltre a ricostruire quella routine quotidiana che, seppur tanto diversa da quella di casa, in quanto fatta per lo più di procedure medico-sanitarie, ritrova nel gioco la situazione nota, in qualche modo anche familiare. La nostra proposta di gioco si concretizza in ogni giorno della settimana. Noi dal lunedì al sabato dei piccoli laboratori e giochi sono per esempio in Oasi al mattino, che proseguono con dei veri laboratori creativi con tanti diversi materiali che cambiamo giornalmente in Oasi e nelle stanze il pomeriggio di tutta la settimana, mentre la sera i bambini possono raggiungere l'Oasi, dove troveranno dei giochi di gruppo, dei giochi musicali, di rappresentazione animata di fiabe. Mentre per i bambini che non possono raggiungere l'Oasi perché allettati, i volontari andranno a trovarli nella modalità di clown oppure raccontando delle fiabe meravigliose. Al mattino poi si entra in pediatria di Treviso accolti dal profumo invitante del biscottificio in pigiama che ogni mattina sforna dei buonissimi pasticcini e pizzette per i piccoli pazienti. Dal 2008 poi Giocare in Corsia ha un progetto detto Isola Serena, dove una nostra educatrice si occupa anche dell'accoglienza ai bambini in attesa di intervento chirurgico in regime di day surgery, perché possano conoscere l'iter della giornata di ricovero e perché possano attendere l'intervento in uno spazio di gioco e di interazione a loro misura, affrontando poi l'intervento chirurgico con minor stress e maggiore serenità, a beneficio del benessere psicofisico sia all'ingresso della sala operatoria sia in fase di risveglio e poi di recupero. Il progetto LILT di Giocare in Corsia dalla nascita è dedicato ad iniziative volte a promuovere l'umanizzazione nel periodo di ospedalizzazione del bambino. È per questo che anche la nostra esperienza viene portata dal 2011 negli ospedali tumorali di Kiev, di Lviv, di Chernivtsi in Ucraina, per arrivare a Novosibirsk in Siberia, dove abbiamo contribuito sia a sensibilizzare ma soprattutto a formare degli adulti che nel tempo si sono organizzati in associazioni di volontariato locale e attualmente portano il gioco e il clown, diventando noi un riferimento e un esempio di animazione. In chiusura ricordo che con piacere sosteniamo e collaboriamo con realtà territoriali che si rivolgono all'infanzia, che permettono di porci al servizio della comunità e contemporaneamente creare cultura su ciò che può e deve essere messo a disposizione dell'infanzia. Ideale è per noi che sia un motore quotidiano della nostra vitalità. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Soroptimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda USC. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.